spettacolo, alla fine di questo spettacolo si è aperta la porta ed è entrata lei. Lei è salita, abbiamo cantato sempre la canzone sua insieme, però lei cantava dal microfonino mio. Anche tu, così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri, giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai un vecchio ritornello. Finita questa cosa, lei ha detto delle cose bellissime al pubblico. È una serata magica perché nel pubblico c'era Ozpetek, c'era Bova, chissà. Tosca è grande! In fondo io sono un clown, guarda come sono combinata. Ti sembra che sono vestita normale? Guarda. Scusatemi. Sono un clown perché è divertente, perché sono malinconica e allegra. Remedios, niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita. Quédate así, sentada al orillo del mar y las manos llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la la la la la, la la la. Hermanito con su guitarra, tú estaba dormida bajo la luna, tú estaba feliz, pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita, piccola, piccola, piccola, pico, pico, pico, pico, piccola mía. Consuelo, tu canto esperanza, tu canto es remedio. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola, piccola.